vita, o mio tesoro, o mia vita, o mia vita, o mio tesoro. Io son tua, io son tua, speme mia, dillo, dillo, dillo, dillo, sei tu, speme mia, dillo, dillo, dillo, dillo, sei tu, l'idol mio, dillo, dillo, tu sei tu. Ti stringo.